amore tra mille parole, quelle già dette più quelle più nuove, sotto il rumore dell'acqua che piove, sul desiderio di essere altrove. Vedo le linee sul muro, penso come sentirmi sicuro, se è più normale restare all'oscuro, stare a sognare un amore più puro. Sole d'ottobre tramonta, poi domattina il silenzio rispunta, sarei cambiato l'ennesima volta, pure la solita faccia sconvolta. Sole che illumina il foglio, sopra il deserto del mio portafoglio, dove la sete mi screpola il viso, mi fa commettere ciò che non voglio. Quest'anno non cade una foglia, sole d'ottobre sta sopra la soglia, come una tipa sculetta e mi invoglia, poi mi innamoro ed un tratto mi imbroglia. Trovati un abito a tema, stai per girare l'ennesima scena, dove si prende lo slancio, poi alla fine non sai se si frena. Domino effetti da domino, tessere a vortice, arrivo gli sgomino, sgamo lo scemo, poi prendo vantaggio con stile, affinché non mi trovino. Sole d'ottobre nascosto, come un giaguaro dal caldo in agosto, mette domande e risposte nell'anima, infine ritorno al suo posto. Oh.